qualcuno su 10? Nessuno, non c'è nessuno, tutto chiuso, fa sciopero. Ah vabbè, allora va bene così, eh? Allora va bene così. A meno che non paghi l'abbonamento, allora c'è sempre gente. No, io l'abbonamento semestrale non ce l'ho annuale, non so se è ancora valido il mio, non lo so. Vabbè, con 200 euro tenici, dai. Ah vabbè, se è così a buon prezzo, va bene, non c'è problema. Posso rateizzarlo? Sì, lo può rateizzare con rate da 250 euro al mese per un anno. Così mi va bene, così mi va bene. Beh, già bra. Come vago di prezzo in ascolto? Per me è una cosa quasi giornaliera, perché alle volte sono in ascolto senza trasmettere, ma aspettando che qualcuno ci faccia sentire, ma come ieri ad esempio Nisba, tu ti assenti, non ho sentito nessuno, eccetto dopo le 8 meno quarto, una cosa così, che c'era Roberto e qualche altro, e quello del Porto Torre, che è Eugenio, e poi si è aggiunto anche Antonio Bombolo. No, in realtà no, noi c'eravamo, io stavo parlando con Claudio, ma eravamo su, capito, già da presto, ci hanno fatto una chiacchierata perché qua non c'era nessuno, e niente, però di norma siamo sempre in ascolto, io già a quest'ora, anche prima, insomma, in ascolto, perché non c'ho solo questa, capito, come frequenza. Io sono anche stamattina, c'ero per tutto il giorno perché stavo finendo di programmare una radio che ho comprato 2 anni fa, tutto lì. Ok, no, io stamattina l'ho fatto. Ah sì, ho acceso un attimo e non c'era nessuno, sono su certi canali, poi sono passato su 20 e c'era Franco California che stava anche lui facendo delle prove, ci siamo trattenuti 10 minuti. Luna, per cui non abbiamo allungato troppo il tempo delle questioni. Vabbè, ma a me stavo guardando la tappa, ma oggi non mi piace, non ci sono attacchi, non c'è niente, tanto queste circuiti che vanno sempre tutti in gruppo, partono in gruppo e arrivano in gruppo, non è che mi piacciono più di tanto. A me mi piace la tappa combattuta, in modo che ci sia un po' più di agonismo. Lo stesso, vabbè, io ho stato bene qua, non mi lamento, però io casomai dovrei tassare, dovrei tassare che da partire, ma il caldo proprio, no, e fosse un caldo asciutto, e adesso potrebbe fare anche 45 gradi, non me ne fregherebbe proprio niente. E speriamo di no, sennò facciamo la fine di quello del Canada. Diretto sui vari punti radio, ne ho fatto uno, adesso sta arrivando bene, poi è uscita la signorina che ha detto che è francese. Oi. Se per la ricerca sei di sperimentazioni di frequenze, e sì, hai ragione, 45 gradi sarebbe un truppo di ragionare, però gli posso dire che stavo parlando con Eugenio, lui, il tipo di lavoro che fa, è micidiale, mi stava raccontando che aveva 80 gradi nel posto di lavoro dove lui lavora, 80 gradi è una cosa micidiale, eppure registro, perché giustamente lì, sai, con i motori, eccetera, il caldo sicuramente si accumula e poi sale moltissimo, ma addirittura dice che disegnava 80 gradi lì, il vostro strumento. E del motore, non certo dell'ambiente in cui è, perché sulla segna tale è una temperatura a cui si muore a 80 gradi, anzi basterebbero 60 per far fuori una persona. Tutto lì. E niente, ci stavo a avere un ascolto, ma stavo anche facendo roba su altri apparati, quindi non ho potuto fare nient'altro che ascoltare, esplorare, girare. Natalino è che si sta dando la latitanza, come mai, che è successo? Non lo so, io l'ho chiamato ieri, avanti ieri, stamattina, niente, non ha risposto. L'orario è sempre quello, l'orario che io ho chiamato è sempre quello, non mi ha risposto, non lo so. Stava preso il Covid. No, speriamo che stia bene, sai, con quello che c'è, con questo caldo, mi risente per primo, quindi spero che stia bene, dai. Beh, quello sì, sicuramente sarà bene, ci mancherebbe altro, se vuole vedere, era solo una battuta alla via, ma nel senso che nonno è assente dalla frequenza, perché sono già 2 giorni che non lo sento, stamattina compreso, dunque sarebbe già il terzo giorno oggi, e non l'ho sentito più, boh, non so cosa dirti veramente. Nessuna notizia di Natalino Alfa 1, centro storico di Sassari. Ah, ma no, che la moglie non gli abbia sequestrato tutto e messo in punizione. Natalino ci sei? No, non c'è, è assente. A meno che non abbia di nuovo problemi col vicinato, e chi lo sa, boh, speriamo di no. Non so cosa dirti, Gianfra, non so cosa dirti, non lo sento già da questo il terzo giorno, per cui non so niente, sono assolutamente al buio. No, non proprio. Vabbè, speriamo bene, dai. Spero bene che stia ripartendo la faccia nostra. E se ne sarà andata male, quasi che sia andata male, che cosa sappiamo? Ad abbronzarsi le chiappe chiare, così almeno anche lui può mostrarsi in costumino, eccetera, e si prende anche lui il soleone. Non credo che faccia così, però tutto è possibile, no? Ah, ma la cosa importante è stare bene, poi tutto l'altro relativo. Eh beh, certo che sì. Non so cosa dirti, non l'usaccio, come si dice in sardo. E vabbè, dai, comunque, andiamo bene. Caldo di acere, e va bene lo stesso. Adesso attacco la ventola anche, devi ausiliare. cambiare per il baracchino, adesso lo attacco. E io l'ho già attaccato. Quindi sono a posto. Vabbè. Allora siamo solo i soliti. E posso accettare, ma come al solito sarà sempre Cornelli. Deve fare come si dice, la trasmissione dei cuochi. Sì. La ventola sta girando, così c'è un'ulteriore forza di raffreddamento. Anche se non le fa niente, però una ventolina messa sopra così, di quelle da PC, già non le fa male, dove c'è appunto il dissipatore della radio, la metto lì, la metto sempre lì, anche se magari si può sentire un po' di rumore dal microfono, ma comunque non è così eccessivamente forte. Stiamo a me? Sì, si sente, ma non dà fastidio, ecco, non è di quei rumori in alternata, ogni tanto si sentono. Appunto. Va bene così. Allora stai diventando la tua frequenza, Sempre indaffarato sì con le frequenze tu. Mamma mia! Ma quante radio hai? 2000? No, 2000 no. Però se vuoi te ne conto, guarda, c'ho circa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobbiamo avere 8 o 9 portatili, credo. Come qualcosa in più. Le radio ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, più 13, 14 radio credo, così, anzi 15, 16 sono quelle che c'è in macchina. Ma non trovo il tempo per usarle tutte, perché avrei tutte quelle radio. No, comunque vuol dire che ti piacciono veramente, e allora un po' alla volta li usi. Vabbè, adesso te, adesso mi dico, poi tutti quei portatili, 8 robe portatili, anche quelli, naturalmente, sicuramente appartenete alle varie frequenze, non è che sono tutti uguali. No, sono tutti uguali, ma sono tutti professionali digitali, capito? È quello che li distingue dagli altri apparecchi. Quindi sono tutti della stessa marca e sono tutti con funzioni evolute, capito? Guardate che i due portatili sono tutti monobanda, innanzitutto. E poi sono due che hanno anche la funzione di ripetitore. Quindi lo metti in una montagna, te ne vai e lui ti ripete il segnale dall'ombra. È una tecnologia molto, molto sofisticata, è roba solo per super appassionati, capito? Non è roba perché si vuole fare una chiacchierata e basta. Quello sì, ovviamente è così, però non avresti comprato tutte quelle radio, questo è, mi sembra scontato. Che attività ne fa? Che attività amatoriale vera e propria, HF insomma, eccetera eccetera, ne fai? Poca roba, perché appena il pulsante mi rispondono i russi. Russi e paesi dell'est, stavo la zona, quindi non è che mi attiri molto, capito? Mi piacciono più le cose professionali, quindi tutte le radio sono collegate a un computer che fa l'analisi dei segnali che arrivano e così via. C'ho vari programmi, molti sono tutti con la licenza che servono, diciamo, per prevedere le navi in diretta, la posizione di tutte le navi qua fin dove arriva la portata delle antenne. C'ho una specie di radar, ecco. C'ho anche quell'aeronautico, c'è un'antennina piccola in cima che riceve tutti gli aerei che sono nella nostra zona, credo che arrivi come portata fino all'isola d'Elba. Poi c'è tanta altra roba per la HF dalla carta frati, ricevo sempre bollettini dalla Terra del Fuoco in Argentina, e tutta quella roba lì, sia in Telex, sia in anche come mappe e così via. Alla rimane la tecnologia, caspita, proprio attrezzatissimo, insomma. Sicché praticamente hai anche un grande pacco antenne, ovvio, perché se no come faresti? Questo è scontato, non c'è bisogno di richiederselo. E vabbè, la passione è passione, e ognuno quando è appassionato ha un certo tipo di hobby. Chiaramente con passare del tempo e degli anni si fa una bella stazione. Sicuramente avrai bisogno di una stanza intera per poter mettere tutto, fare tutta la composizione della stazione. Una stanza a conto tuo, esclusivamente per la stazione. No, devo dire di no, sotto il profilo dello spazio, perché è tutto, c'ho due pensieri praticamente autocostruiti, no? E le radio stanno sotto, essenzialmente quelle HF, al secondo piano diciamo ci sono le altre radio sempre HF e qualche VHF, VHF, servizi speciali eccetera. Poi appeso sotto il secondo pensile ce ne sono altre 6, altri apparati veicolari, 6 digitali, normali e particolari. Poi sopra, all'ultimo piano, diciamo, ci sono tutti i portatili con tutti i caricabatterie. Come antenne il parco è molto grosso, figurati che sul solo traliccio ci sono 5 antenne, di cui 3 VHF, cioè 3 bibanda a diverse altezze, e 2 antenne lunghe 80 metri che sono delle poi non mi viene il termine, vabbè, comunque antenne lunghe, dai, sono dei poli, comunque della famiglia dei poli, estremamente lunghe ma molto molto resistenti, tutte autocostruite. Mentre sul tetto qua sopra la cabistudia mia ne ho altre 2 di banda, una monobanda radar aereo, una direttiva per i collegamenti a bassa potenza con monte d'imbara, un'altra direttiva in basso, e poi non me lo ricordo più onestamente, perché guarda, ieri ho finito finalmente di sostituire quella che era rotta sul traliccio posteggio, diciamo così, sulla torre, come la chiamano qua, e anche quello di risolto, mi auguro, perché si rompevano spesso. Vabbè, ma già sai che hai tutta quella passione, vabbè, la passione magari ce l'avrei anch'io, però non farò mai una cosa del genere, ma nemmeno per sogno. Tu pensa che io non ho fatto mai l'esame del radioamatore per non riempire il tetto di antenne, tu ti puoi immaginare. Se no avrei anche negli anni passati, non dico adesso ormai con l'età che ho, ma prima, quando potevo farlo, che avevo tutta anche l'intenzione tra l'altro, poi ho pensato, ma che bello fa fare, se io faccio una cosa del genere poi non mi freno più, non mi freno più, incomincio a comprare di tutto, perché grazie a Dio le possibilità già ce le ho, però ci ho riflettuto molto, ho fatto no, niente patente, così almeno sono obbligato a rimanere solo CB e basta. E dunque c'è stata tante antenne, c'è stata tante radio, eccetera, eccetera. Perché diventa una corsa così al consumo, tutto sommato, per poi farne che cosa? Arrivare a un certo punto, avrei fatto anch'io la fine, che hanno fatto tante radioamatori. Prima tante cose, poi alla fine si sono liberati un po' di tutto e sono rimasti anche senza niente praticamente. Purtroppo è così, ho fatto bene, secondo il mio modo di vedere le cose, ho fatto bene a non prendere la patente, assolutamente. Ma, diciamo, è una questione d'opinioni, tu tieni presente che per me è un hobby da piccolino, da bambino, quindi poi anche derivato dal fatto dal lavoro che faccio, non lo posso a casa praticamente, perché lavoro nel digitale, quindi lavoro anche nel digitale a casa, sempre in bit sono, ecco. Quindi diciamo che il fatto di essere radioamatore, di avere tante antenne, tante radio, non c'entra niente. Sono radioamatori che collegano tutto il pianeta, che hanno uno sgabuzzino 2x2, uno sgabello su cui appoggiata la radio e magari un'antenna un po' performante, anche se verticale, però performante. E hanno parlato con tutto il mondo, non è quello il problema che hai citato tu, ecco. A me, perché c'è la passione, una grande passione, e soprattutto c'è più che radioamatore, c'è la voglia di vedere un po' in giro tutte le frequenze possibili, soprattutto da dove arrivano, eccetera, eccetera. Ma guarda, essere radioamatore, ti posso assicurare che di ex non ricordo averne fatto. Queste le amatoriali non ne ho mai ricevuto, ad esempio, cosa che non ci vissi quando ero giovane. Ce l'ha ancora tra l'altro, ma dal punto di vista del fare i collegamenti non mi interessa, a me mi interessano i collegamenti punto punto, capito? Quelli di alto livello che ci devono sempre essere, a prescindere dal tempo, da tutto. Figurati che da ragazzino modificavo le radio per ascoltare le imprese del mitico comandante Camezza, quindi soprattutto quelle navali mi piacciono, sono per il mare. Sì, d'accordo. No, ma io appunto, conoscendomi, penso che non sarei riuscito a frenarmi e avrei fatto tante di quelle spese e comprato tante di quelle apparecchiature che sicuramente mi avrebbe fatto spendere un patrimonio. E allora, facciamo così mentalmente, in me stesso mi sono detto, niente patente e di conseguenza rimango bloccato e fisso solo esclusivamente sulla CB, niente di più, al limite qualche ricevitore ho pensato, posso anche ascoltare al limite, ma niente di più. No, devo dire, devo essere sincero, io vedere le case con tutte quelle antenne sul tetto, guarda, devo dire che non mi piacciono per niente. Tu mi dirai, ma non sono a casa tua. Certo, non sono a casa mia, ma siccome non mi piacciono, io non voglio fare una cosa del genere a casa mia, nella maniera più assoluta. Vedo certi tetti che sono micidiali, cose addirittura assurde. No, non mi è mai andato a genio proprio quel problema lì. La passione per la radio ce l'ho sempre avuta e ce l'ho tuttora, nonostante l'età, eccetera. Come vedi, sono fisso qua da 49 anni e mezzo, perché non avrei potuto fare esami quanti se ne possono fare per avere qualsiasi titolo per poter trasmettere in tutte le frequenze, eccetera. Ma poi ho pensato no, assolutamente. Non va bene, anche perché significherebbe, secondo me, a un certo punto anche trascurare un attimo la famiglia, perché se tu hai tante radio, queste radio prima o poi ti viene la voglia di utilizzarle. Ma io non ho pensato, no, se faccio una cosa del genere magari trascuro anche la famiglia, perché rimango sempre attaccata alla radio e non voglio fare lo schiavo della radio, assolutamente. E così è stato, sono arrivato a questa età e continuerò così sempre. Avanti, dottor. Sì, vabbè, la tua è una situazione diversa, totalmente diversa. Io non c'ho diciamo, persone, non c'ho figli, non c'ho mogli, quindi non devo mantenere nessuno, quindi posso dare sfogo per una mia scelta personale, per l'altro. posso dare sfogo come voglio a come li vogliamo chiamare, a questi vizi, ad avere tanta radio eccetera, ma ripeto, è una passione mia, anche di studio se vogliamo, dei nuovi sistemi, di tutte quelle cose lì, è una curiosità che ho da bambino e l'ho coltivata perché non posso neanche dire che mi rilassa, perché a volte è estremamente impegnativa, soprattutto le radio moderne che devono essere scoperte, memorizzate, fatte proprio in un certo modo. E quindi è una cosa molto molto complessa, no? Molti radioamatori le odiano questa radio proprio perché c'è da avere delle nozioni anche di informatica non proprio di base, ecco. Comunque e niente, sì, per quello che ha detto così sono così notevoli, soprattutto nel mio campo sono molto molto molto alti. Figurati che un singolo portatile monobanda si aggira intorno alle 700 euro, un singolo portatile che ti metti tranquillamente in tasca, però è monobanda, è digitale totalmente, però i costi sono questi. Sì, lo so che i costi ci sono, ma quello non sarebbe stato un problema, devo essere sincero. Quello non sarebbe stato un problema per me. Il problema è che ho avuto paura che io mutassi magari il mio atteggiamento nei confronti della vita normalissima che una persona può condurre, attaccarmi troppo alla stazione radio, avere troppe cose, perché io mi conosco, se io ho una cosa poi alla fine la voglio studiare proprio nei minimi dettagli, per cui ho rinunciato a quelle cose lì. Però in precedenza, negli anni passati, quando ero più giovane, anch'io ho fatto tante di quelle applicazioni elettroniche che tu non hai idea, ho comprato tante di quelle registri, ho speso tanti di quei soldi, addirittura, tanto per darti un'idea, è presente il Turcassone Vecchio, che una volta c'era anche qua nella zona mia per la Mondetta, io l'ho riempito di riviste, riempito nel vero senso della parola, perché non avevo più spazio dove mettere, avevo uno sgabuzzino dove abitavo prima, no? una dispensa che era all'incirca 2 metri, 2 metri 50 per 1 metro 80, una cosa del genere, proprio come un ripostiglio praticamente, dai, le cose calde. Quello era esclusivamente pieno di riviste di elettronica, di ogni genere. Beh, un bel giorno mi sono incavolato perché non sapevo più dove mettere le cose importanti della famiglia. Ho preso scatoloni, li ho riempiti, li ho portati e li ho scaricati dentro uno di quei cestoni di quel cassone della Mondetta, che allora non c'era il discorso umido, non c'era, era un unico cassone e basta, mettevi lì e basta. L'ho riempito di riviste che poi mi è anche dispiaciuto perché erano delle riviste anche molto interessanti, sto parlando di riviste anche di 45 anni fa, anche 50 anni fa, per dirti, no, alla fin fine cosa me ne facevo, non è che poi potevo ricominciare da capo a sfogliare le riviste, no, le ho eliminate e basta. Questo cosa voleva dire passione per l'elettronica, oltre al fatto che prendevo tutte le settimane immancabilmente, ne compravo 3-4 anche di queste riviste, proprio erano anche soldi, devo dire che erano anche soldi, allora addirittura riviste, quando allora c'era la lira da 150 lire, e li ho buttate anche da poco, li ho buttate un po', che tra l'altro me ne sono rimaste almeno una ventina ancora, perché proprio l'altro giorno stavo sistemando qualcosa qui a casa e ho trovato un'altra ventina di quelle riviste, infatti le ho messe da parte per buttarle il giorno della carta, quando vengono qui a ritirare la carta, le metterò dentro lo scatolone della carta che ci ha dato comune e così butterò via anche quelle, per dirti, no, una cosa assurda. E vai, ma su giù e non gli dici così. Mi la buona mia madre Natalino che si è affacciato dopo 3 giorni. cavolo cari. Sì, ciao, ciao. Ciao Gianfranco, anche a te. Ma te li immagini questo Giulio sempre dando carte? È quel passaggio di un'ora. Infatti le volevano dare i saluti da un'altra parte, ma è stato talmente lungo che si bruciava la roba che era sul fuoco e ho dovuto scappare. Ho capito. Ui. Mica scherzavo mi, ma su giù. Sì, figura. Ma il passaggio era lungo perché essendo io e tu, Gianfra, solamente si può fare un monologo così. Quando ci sono altre persone allora bisogna far girare, fare passaggi un pochino più corti, quello è ovvio. Avanti Natalino, tre disabugiamenti di, non mi hai risposto. Sono impegnato in questi giorni, domani mattina lo stesso devo fare cosa, se no sarei entrato, è che non ho avuto modo, capito? Ho capito, va bene. Andare, perché anche stamattina ti ho chiamato, evidentemente basta, va. Natalino è andato al mare, ad abbronzarsi. Avanti Gioca. Al mare era, infatti, non ce lo puoi dire, perché ci sta un piede al mare, oi, quello è un ragazzaccio secondo me, però è nata lì. E comunque, mentre tu stai parlando, Giulio, ti sto dicendo che è una persona che puoi dare i suoi saluti, e che lui c'è sempre comunque, anche quando non lo senti, c'è sempre. Non lo so chi sia, vabbè, se ti ha salutato, ha fatto il suo dovere, se ti ha salutato va bene così. Ma io l'ambasciata l'ho fatta, ti ho salutato da parte sua. Grazie, non so di chi stai parlando, comunque grazie. Saluti all'amico se sta ascoltando. Sicuramente è quello con la W. Con la W. Piaccia, lo parla pure. Ciao Claudio, ciao. Altro che con la doppia Russi, io sono IS0 di SB e trasmetto sempre, ci sono sempre e sono l'unico rimasto in digitale. Buonasera a tutti. Ciao Cla, tu devi fare da bravo. Ciao Claudio. Vabbè, meglio così, dai. È meglio così. Comunque. E allora, Natalia, raccontami, io sono curioso qui, insomma come le donne che hanno voglia di chiacchierare. No, ho impegni di famiglia, cosa amare. Tu, questo è come ha detto Gianfranco, un cattivo ragazzo, invece niente mare, impegni di famiglia e boh. E domani lo stesso devo andare a accompagnare per esempio mia moglie dal dentista, e non è così, magari andare al mare, nulla, altro che mare. Ma noi stavamo pensando un'altra cosa, ma forse la moglie l'ha tolto fuori il mattarello e l'ha messo, l'ha fatto stare composto, così almeno non fa da bravo, non fa da monello. Bene, Gianfranco. Gianfranco, io lo vedo, sta ridendo sotto i baffi, sta ridendo. E mia moglie ce l'ha sempre appreso il coso, il mattarello, e quindi devo fare da bravo per forza. Fa bene che se lo tiene sempre vicino, così almeno a ogni occasione si fa rimanere composto. E vabbè, Gianfranco sta parlando in digitale, e va bene così, non c'è problema. E beh Claudio, anni sciapura, no? Tu dovresti continuare a parlare qua, l'hai sempre detto. Che sei nato CB e CB vuoi rimanere, ma devi parlare però. Ma cosa CB? Quello lì non è CB. Se non se fosse stato CB avrebbe parlato con noi, invece se la tira questo Claudio. Ma te le immagini ragazzi, come ci ha tradito, da quando si è spostato di casa ci ha tradito, non vuole più parlare frequentemente con noi, entra solo a salutare, questo ci fa piacere, però ci farebbe piacere se rimanesse anche con noi a chiacchierare un po' di più, vero Natali? Mi sembra ovvio e logico una cosa del genere, ma questo Flavio, lui, Crumiroga. Vabbè, adesso il digitale con Gianfranco. Gianfranco, spegni il digitale, così Claudio entra qua. Adesso domani vado e mi compro il digitale, così gli metto la portante col tono. Mi. Guarda, anche se te lo compri, a me piacerebbe vederti, guarda, anzi dovresti fare un filmato quando te lo compri, a programmarlo bene per poterlo fare quel lavoro. Guarda che non sono ignorante in cosa, mica programmavo in DOS quei programmi per il packet che abbiamo iniziato prima noi CB di quei radioamatori. Fai da bravo Gianfra, che non sono ignorante, mi costruisco il computer da solo io. A me mi ha insegnato un ingegnere informatico ed è il figlio di un CB che conosce benissimo anche Giulio. Io entro solo per salutarvi e poi me ne vado. Ma non ti sta dicendo quello o Natalicia o Giulio anche di nuovo? Non ti sta dicendo che sei ignorante, ti sta dicendo che lì non puoi entrare proprio, perché se non hai il nominativo e il codice d'accesso, la portante non la puoi mettere a noi. È quello che ti sta dicendo ridendo Gianfranco. Poi che tu sei bravo a codificare e a fare quelle cose, io lo so che sei non bravo, sei bravissimo, perché ti ho visto farlo e ti ho visto anche in azione e so tante cose che hai fatto, però quello è un altro mondo. Lì se non hai il codice d'accesso che ti dà il ministero, non puoi, quando schiacci la portante ti dice picche, capito? Quello ti sta dicendo Gianfranco. Va bene, dai, buonasera a tutti, io sì, entro a salutarvi, ma non ho tempo, Giulio. Non ho tempo, ve l'avevo detto, io ci sono in radio e perché vi ascolto molto volentieri, è da poco fa che vi ascolto, però sto sempre facendo altre cose, quindi non mi posso trattenere. Ok, dai, buonasera a tutti, alle prossime. Vai, vai, che tua moglie ti ha messo a disermare lì, a lavori in corso. No, l'ho tagliata domenica, ho lasciato tutto il prato, ho fatto tutta una bella pulizia, ma sto facendo altro, Natalia, c'è sempre da fare, capito? Stamattina mi sono arrivate le zanzariere, quindi mi ho già piazzato due, adesso me devo piazzare altre due. C'ho sempre da fare, Natalia, c'è sempre da fare, tu lo sai, hai vissuto in campagna, lo sai come funziona. Quindi la radio c'è, ci sono tutte le radio, le antenne non le ho messo perché non mi interessa, ma già c'ho le filari. Ascolto e parlo lo stesso, senza avere grandi cose, però il mondo digitale mi sta appassionando, quindi sto facendo un po' più di digitale, ma vi ascolto lo stesso anche a voi, non c'è problema. Avanti Giulio, dai, buonasera a tutti, ci sentiamo più tardi se ci siete. Va bene, comunque io ho già studiato quel modo lì. C'ho anche il nominativo, è solo che volevo la carta, guarda che non glielo hanno in testa a buttarti, a me che volevo la carta, per darti, non vogliamo abbandonare, capito, è una maniera più assoluta. Allora ti è preso di telefonate in quel caso lì. Va bene, avanti Gianfranco. Siete sovrappopolati a Natalino. Ho detto che l'ho studiato, l'avevo detto anche a te, Gianfra, l'ho studiato il modo e tutto, solo che vogliono la carta per l'ID, non basta il nominativo, è per quello che non si può fare. Comunque ti pare che io ti mettevo la portante in digitale anche se potevo farlo? Vorrei vedere cosa vuoi fare, se volessi prendere un accetto a qualcun altro, Natali. Ma lo telefono alle 2 di notte, però mia Claudio, così lo sveglio. No, ascolta, mettiamoci d'accordo, perché se tu le telefono alle 2, allora io le telefono alle 3 o viceversa, sicché dimmi un orario giusto, non cerchiamo di non accavallarci anche con le telefonate. E vabbè, io lo telefono alle 2 e tu alle 3. Va bene, facciamo così. E va bene. Aiuto, dai, Giofra, raccontaci. Poi in linea di massima mi dici dove effettivamente siete, che ancora io non ho capito dove sei, sinceramente parlando. Non è che vuole un indirizzo di casa e il numero civico, questo non mi interessa, ma tanto per capire un attimino, no? Vai Giofra. Sì, Giulio, non ho capito l'interrogativo. E se era rivolto a me o a qualche altro? Era rivolto a te, ho detto che ancora dopo tanto tempo non ho capito ancora dove effettivamente sì. Non è che voglio l'indirizzo di casa e anche il numero civico, questo no, assolutamente no, ci mancherebbe altro. Però in linea di massima fammi capire da dove proviene la tua modulazione, grosso modo. Ah, guarda, io sono sulla 127 bis, cioè quella che ti porta alla come si chiama? Alla stazione Molaffa, dai, quelle zone di Prato Comunale, è una zona molto vasta, molto grande, non è altissima, ma c'è vede tutta Sassa, ecco. Ho capito, sia a livello del Monte Oro, dai. Sia a livello più o meno di Monte Oro. Sì, no, perché ho 127 B, è lunga, lunga, addirittura sale anche a Usino. Percorre mezza Sardegna, per cui. Va bene, dai. Ho capito, sia a livello di Monte Oro, dai. Avanti la carica. Un po' più basso, purtroppo. Sì, vabbè, un po' più basso, ma siamo lì. Si vede la visione ottica, si vede benissimo Monte Oro. Perché io lì ci ho bazzicato tanto, ho fatto tanti lavori, poi allo stesso tempo tutte le domeniche andavo, quando era il periodo del calcio, andavo e seguivo la partita, tutte le domeniche mattina, e sono benissimo dove è stato comunale, eccetera. E poi andavamo a fare anche delle seminate a campagna di un amico lì, che ha la campagna un mio amico, e dunque le seminate le facevamo sempre generalmente in quella campagna lì. Va bene, ho capito. Vai, resta lì. Sì, cappa. Lì ci abita anche un altro CB, ci abita in quella zona lì. Quello che vendeva ricambi di auto. Mi. Ehi, già lo so, pensavo. Ma se per quello negli anni passati c'era anche un altro ragazzo, muratore, un certo Angelo, che anche lui era lì, tutto su quella strada del fatto comunale, eccetera. Ma ormai non c'è più da tantissimi anni. Anche lui avevano costruito la casa, se ne erano andati ad abitare lì, prima abitava lì all'angolo dove ero io, prima via Petronica. Sicuramente l'avrai conosciuto anche tu, quando tu abitavi un pochino più su, abitavi però sempre nella stessa fila delle case dove, all'angolo prima di attraversare il Piano Suicidio, c'era quest'altro ragazzo con la famiglia, insomma, che abitavano lì, il padre è impresario muratore, e avevano costruito la casa lì a Prato Comunale e sarebbe piazzato anche il baracchino. Vabbè, là, compagnia, avanti Giovanna. Sì, in effetti qua c'è una Mantova 1 molto vecchia, dalla casa sotto la mia, non è alta, però insomma c'è una Mantova 1, probabilmente non trasmette più. Però di chi sia, ripeto, non ho tutta l'idea, perché qua sì c'è anche gente giovane, ma i giovani appena possono, mi sa che scappano. La campagna giovane, ho capito che fa molta paura, quelli devono uscire la notte, capito, Giulio, e quindi stanno lì a presso i padri. Qua ci sono molti padri che sono comandati non dalla moglie ma dai figli, portami di là, eppure passa pure il tram. Quello della Mantova dovrebbe essere Vittorio, che c'aveva una Mantova bassa, da. Non lo conosco, non, qua diciamo sta in campagna, ti saluti, ti con tutti, però non è che poi ci sono grossi rapporti, a parte i vicini proprio di terreno, anche perché ognuno ha dei terreni abbastanza grandi, quindi infatti mio amico quando lo incontra mi dice: beh, come va la fazenda a mo' di terreni messicani, perché tutti ci hanno spazi abbastanza grandi, comunque. Io a casa di Vittorio ci sono andato parecchie volte, ci sono andato. Adesso non voglio dire la zona perché magari è proprio vicino a te. Può darsi, ma tieni presente che il Prato Comunale è praticamente, non voglio esagerare, ma probabilmente c'è una buona parte di Sassari. Se prendi Sassari e la sposti, probabilmente ci sta. Ehi, lo so, c'aveva la campagna anche lo zio di Babbo, c'erano gli animali lì, vacche, cose varie. Ci sarà Gildo ancora, il figlio, cavolo. C'era un cavallo, quello bellissimo, andava a prendere le vacche a cavallo, andava, senza né selle né briglie. Sì, no, qua come cavalli c'è molta gente che ce li ha. Addirittura chi abitava prima un po' più giù di me, c'aveva proprio il maneggio, faceva le corse. Ma sono più diffuse di quelle che noi pensiamo, la gente non cavalli, anche dove sta Claudio, ho visto che di questi che allevano cavalli ce ne sono tanti, quindi è abbastanza diffusa la cosa. Lo so. Anda bene Meda. Vabbè. Tu dovresti farti anche qualche partitella di calcio, visto che hai il campo di calcio vicino, Giaufra. Così ti tieni sempre giovane, sempre in forma. Sì, magari, ma il calcio non è mai piaciuto. Mi sarebbe piaciuto invece andare in bici, fuori da qua, solo che è zeppo di cani. Capito? Qua un paio d'anni fa anche un bambino era stato aggredito dai cani, è stata vita brutta, quindi avventurarmi in bici, c'è molta gente che corre, anche anziani, è vero, c'è un signore anziano che corre parecchio, c'è un altro che passa sempre sulla 127 bis, lo vedo ogni mattina praticamente, insomma gente che fa sport ce n'è. Anche il mio vicino di casa, anche lui andava in bicicletta, poi ha dovuto sospendere perché non so se durante il servizio abbia avuto qualche problema o qualche caduta, anche ha dovuto lasciare anche il lavoro e ha approfittato per andare in pensione. E quindi è così, in una zona tranquilla, bella, c'è aria buona, qua abbiamo anche le pernici che vengono a trovarci, la notte viene a trovarmi a volte. No, guarda, in città non ci tornerei neanche se mi danno una casa in regalo, per dirlo. La passione per la campagna è bella veramente, no? Perché ti trovi libero, indipendente, e soprattutto non devi dare conto a nessuno, niente di vicinato, eccetera, quindi ovviamente è molto bello. Poi è una vita salutare, tutto sommato è una gran bella vita, no? Solo che ci vuole molta passione per poterci vivere, poterci abitare. Non sono tutte le persone che vorrebbero vivere in campagna, assolutamente no. Però chi ci abita evidentemente è molto appassionata alla campagna e fa bene ad esserlo, perché la campagna per me è vita. Per me la campagna è vita e soprattutto salute. Bene, bene. Ok. Lo conosci il proprietario dei campi di calcio? Sì, ce lo conosci io, Giaufra. Ma guarda, in verità non lo conosco affatto. Gli unici campi di calcio che ho visto, perché ripeto io non li frequento nemmeno, sono quelli che ci sono a Caniga, dove faceva anche delle partite con delle squadre di fuori, perché come io c'avevo prima un collega che era arbitro e quindi mi diceva che veniva in zona per portare la squadra addirittura dalle parti, lui abita a Bono, quindi figurati, veniva qua per fare il campo di calcio di Caniga. Che ce ne siamo qua intorno, l'unica cosa di cui sono certo è che ci sono molti campi da tennis, ecco. Quello lì lo so, che ci sono nella prima, nella seconda via, non ricordo, ci sono dei grossi campi da tennis. Sì, penso che sì. E vabbè, dai. Ti prendi la taglia, ti prendi. Tu te ne sei andato dalla campagna, meglio mai te. Sì, me ne sono dovuto fuggire per forza, per non avere problemi, perché ho un carattere un po' così io, poi se mi gira, giro male, capito? Meglio prevenire che curare. Vabbè, quello sì. Oh, tutto sommato, quando io sono venuto ad abitare qua, in questa borgata, non dico che è la campagna, ma abbastanza circondato dalla campagna, oggi no, oggi è tutto costruito, è lungo e largo, per cui è tutto diverso. Ma io quando sono venuto qua addirittura le strade non erano asfaltate, l'acqua del comune non c'era nelle case, per il semplice motivo che c'erano le fontanelle per le strade, con tanti di quei chilometri di tubo di gomma, ognuno che arrivava alla sua casa. Io no, io fortunatamente ce l'avevo già, anche perché noi avevamo la fossa biologica e poi avevamo il pozzo a sonda, eccetera, eccetera, per cui diciamo che in un certo senso ho vissuto anche un po' le abitudini che fanno parte anche della campagna, ma tutto questo risale a moltissimi anni fa, eh? Avanti Gianfra. Ma prima della guerra probabilmente. No, assolutamente no. Io abito qua dal 1971, praticamente 50 anni, devo compiere adesso all'agosto, che abito qua. E in quegli anni lì, nei primi anni, non c'erano strade asfaltate, non tutti avevano l'acqua a casa, perché evidentemente non c'erano nemmeno la rete idrica, non c'era qua, per cui dopo col passare del tempo hanno asfaltato tutto, hanno costruito tutto, anche perché la borgata si è ingrandita, sempre più numerosa come il numero di abitanti, per cui è diventata una piccola città, che ci sono abitanti quanto ce ne sono a Porto Torre, tanto per darsene un'idea, qui nella zona, perché comprende i punti, Villa Gorizia, eccetera, eccetera, insomma, vedo bene che è così, riprendi. Qua non lo so quanti ce ne sono, perché sono, ripeto, tutti terreni grandi, però è parecchio esteso, ho visto, perlomeno quando ho lanciato il drone per controllare il territorio, ho visto che è vastissimo veramente. Figurati, col drone senza andare troppo in alto si potevano tutti i dettagli del ponte che c'è lì, di Itili, e di tutte le zone là che confinano quasi con Olmedo, o confinano con Olmedo. Sì, certo. Lo so, vabbè, comunque, adesso è una città, qua il punto ormai è diventata una città, perché c'è tutto, ci sono 5-6 supermercati, ci sono 2 farmacie, la chiesa naturalmente non manca, come non manca da nessuna parte della Sardegna. C'è tutto indistintamente, bar, ristoranti, trattorie, cose che non c'è, pizzerie, di tutto c'è, i medici, i negozi di ogni genere, per cui è ormai diventata una città, una piccola cittadina, ma una città, anche se è sempre Sassari. Avanti Natali. Lì ci abita mio zio, il fratello di Babbo, che è mio padrino pure, ci abita una vita lì agli punti, che mi ricordo delle fontanelle perché me lo diceva lui, capito? Ok, certo che sì, per non parlare poi delle feste che si fanno tutti gli anni, la festa della chiesa, la festa della stazione, la festa, insomma, la festa di Sant'Antonio, la festa di San Giovanni, qui siamo sempre in festa, si può dire, non c'è problema, molto spesso arrivano gli artisti anche da fuori, è ovvio, per non parlare poi di campo di calcio, capo di cazzo, ce ne sono, abbiamo lo, il piccolo stadio comunale, abbiamo poi i campi anche di Roberto Quadrato, ce ne sono 3 o 4, ma quelli sono un po' più all'esterno degli punti. E poi ce ne sono altri, abbiamo il campo da tennis, abbiamo il campo di cosa, come si chiama, quell'altro sport, del pallone ovale, o cosa si chiama, boh, rugby, forse, boh. Insomma, siamo attrezzati, che c'è da fare? Siamo attrezzati, ci stanno a parlare poi dei campi di punti di San Giorgio, che ci sono lì a un chilometro dalle punte praticamente, i campi dei frati. Cioè, qui siamo ben attrezzati, Gianfra. Ma anche qua ci abbiamo tutto, cioè sono la fermata del tram che fa tutto il percorso. Ripeto, di Roma Sportiva c'è quel campo grande che è quello di Canica, dove fanno partite